Sconvocati Magazine di Carlo Genta. Sarebbe irrispettoso, no? Non è bello parlare di eventualmente di programmi, no? O di cosa fare per cercare di colmare, di avvicinarci a colmare questo gap, perché questo gap non è che dall'oggi al domani lo colmi, eh? Che sia chiara sta cosa. Ma devo dire che questo è un gap, direi, a livello generale del calcio italiano. Il calcio italiano non è più in prima fila come lo era qualche anno fa. Quindi noi in Italia è un momento in cui stiamo facendo di necessità virtù. Ecco perché ci vuole essere, bisogna avere pazienza, non bisogna essere presuntuosi. I campioni ce li comprano, noi facciamo difficoltà a comprare i campioni delle altre squadre, per di più non vengono neanche. E quindi bisogna avere anche l'umiltà di capire che è un momento in cui bisogna lavorare testa bassa e cercare di tornare ai livelli dove eravamo, perché in questo momento io non vedo prospettive di vittoria per una squadra italiana da qui per parecchi anni in Champions League. Oggi il potere del Bayern, per esempio, il potere d'acquisto, il potere di quello che è il fatturato espresso è il doppio del nostro, il doppio delle squadre italiane, per cui capite che dal punto di vista economico si possono permettere, come tutti sanno, Xavi Martinez pagarlo 40 milioni in contanti. Buongiorno, buon sabato a tutti. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Siamo partiti dalla tristezza, anche eccessiva secondo me, juventina per l'eliminazione con il Bayern di Monaco, eccessivo disfattismo secondo me, per anni non rivinceremo la Champions League, siamo lontani anni luce, siamo poveri, gli altri sono ricchi, ma non lo so, magari gli altri sono anche più bravi a fare mercato. L'altro giorno abbiamo sentito Conte e Marotta, l'altro giorno Alessandro Bonanna, che era nostro ospite, era qui con me, diceva, ha definito Conte un personaggio molto letterario nella conferenza stampa della vigilia della partita con il Bayern. Ha detto Alessandro, sembrava, aveva la faccia trasfigurata, Hannibal Lecter mentre stava per mangiare il naso al secondino. Poi alla fine 0-2, che non è il prefisso di Milano, ma la fine di questo film di Juventus Bayern di Monaco. Massimo Callegari, altro nostro vecchio amico da Mediaset Premium. Ciao Massimo. Ciao, come state? Benissimo. Adesso abbiamo, come dico da giorni, la distanza esatta che separa la Juventus dalla cima del campanile europeo. Secondo me non è una distanza così incolmabile, almeno per la Juventus. Per le altre è un discorso molto diverso. Continuo a considerare la Juventus, per diverse ragioni, stadio di proprietà, politiche, aziendali, se me lo consenti, all'avanguardia, o almeno al passo con i tempi europei, mentre le altre sono ancora alle prese con i soldi che deve dare Moratti per ripianare il bilancio, quelli che deve dare Berlusconi in tempo elettorale oppure no, insomma, stadi che sono pollai. Siamo su logiche differenti. Il parametro di riferimento nostro sul calcio europeo è la Juventus. A me non sembra che la distanza, non mi sembra che la distanza, come dice Conte, come dice Marotta, sia così incolmabile, e non condivido questo disfattismo. No, io credo che sia tutto proporzionato anche all'aspettativa, che è stata enorme, la riposta in maniera enorme sulla Juventus prima della partita di andata, e poi comunque no, l'idea della rimontone è stata cavalcata in maniera emotiva, come ci succede spesso. Cioè, noi italiani abbiamo creduto e promosso, anche noi media, se ricordi, la possibilità che l'Inter rimontasse 2-5 con lo Schalke. Sì, certo. Quindi parte, no, di un meccanismo generale che ci sta, ed è giusto che sia così, vale anche per i media spagnoli, per carità. Però questo probabilmente ha alzato ulteriormente l'aspettativa e da un punto di vista esclusivamente emotivo. Poi razionalmente, cioè il Bayern personalmente, ma non sono sicuramente l'unico, da quando l'abbiamo visto all'opera negli ottavi con l'Arsenal all'andata, in tanti abbiamo pensato che fosse la grande favorita di questa Champions, la migliore in assoluto, quindi sa che ci sia differenza ancora, no? Ma guarda, io vedo tre squadre sopra tutte le altre in Europa e sono tre di queste quattro squadre sono in semifinale di Champions League, Bayern e Barcellona che si affronteranno. Borussia Dortmund, che per me può essere il parametro di riferimento per la Juventus nella ricostruzione, perché dove non arrivano i soldi possono arrivare le idee. Real Madrid, che è invece una realtà ancora diversa. Vedi come la Juventus, lascia stare il Borussia Dortmund, vedi come la Juventus però ha già una caratteristica europea, cioè ha una caratteristica di questa oligarchia di squadre che realisticamente, senza troppe chiacchiere, possono puntare alla Champions League perché ne hanno le qualità, il potere, il denaro, eccetera, cioè è dominatrice, conto anche questo campionato, nello stagno del suo paese. Sì, questo è vero, e quindi anche questo forse ci ha un po' sballato la nostra percezione, o forse questo che ci dà ancora più delusione, no? Perché noi la vediamo qui così strapotente e debordante rispetto alle altre e pensiamo, se questa è la nostra migliore squadra e ha tutta questa strada ancora da fare per arrivare alle migliori d'Europa, come dice Conte, chissà quando ci arriveremo. Il problema vero secondo me è che poi andando avanti così e faticando non solo e non soprattutto in Champions ma ancora di più in Europa League, noi continuiamo e continueremo a perdere punti nel ranking e rischiamo non a stretto giro ma in un futuro neppure troppo remoto di perdere anche un'altra squadra in Champions. Sì, certo. Ora questo genererebbe poi un meccanismo vizioso, sì, pesantissimo da gestire. Sì. Però non è solo una questione economica, no? Perché se vedi la Juve ha individuato dei giocatori come Pirlo, Pogba, Vidal, Barzagli, spendendo in tutto 15 milioni. Certo, poi però ne spendi 6 per Giaccherini, 5 per Peluso, 5 per Padoin, 18 per Isla. A parte Isla, che secondo me è ancora un argomento da chiarire, perché continuo a pensare che sia un ottimo giocatore, 18 sono troppi, però un ottimo giocatore che è finito in margine delle rotazioni, secondo me. Perché Isla e Asamoah nell'Udinese erano il cuore e l'anima di quella squadra, non vedo perché non debbano esserlo per la Juventus. Più che altro dico, non è solo una questione economica, perché la Juventus alla fine poi ha buttato dei soldi dalla finestra per Bentner, per il soprammobile Anelka, ed erano soldi che potevano essere anche risparmiati, no? Sì, un mucchiettino che si sarebbe fatto, che avrebbe permesso di acquistare giocatori di un altro livello. Io credo, ecco, che in prospettiva, visto che si parla anche molto di Verratti, e quello era un giocatore che il mercato italiano in generale, poi fosse l'Inter, il Napoli o la Juve, non cambiava, però non poteva farsi sfuggire un giocatore che valeva 13 milioni e aveva un ingaggio ancora sostenibile. Questo è stato un errore che non possiamo perdonarci, però l'idea è che la Juventus vada a cercare lui, come si dice e si pensa, credo che faccia capire anche che loro qualche timore che Pirlo l'anno prossimo non possa più essere al livello già dell'anno scorso ce l'abbiano. Qui si innesta un discorso di ulteriore ricostruzione della squadra, no? Cioè, tu non vai a mettere solo una pedina nuova in una squadra già organizzata, no? Rinuncerai un po' a una delle tue migliori, devi inserire un'altra, e quindi forse devi ripartire ancora un po'. Sì, no, certo, è una squadra che va ristilizzata continuamente, perché la strada per diventare grandi è quella, non ti serve il grande acquisto su un telaio che comunque comincia ad invecchiare. È una squadra che va pian piano ritoccata, ma con i soldi certamente, perché quelli sono fondamentali, ma anche con intelligenza, perché abbiamo visto anche dei confronti, l'emblema di questo confronto è Mandzukic, no? il centravanti del Bayern Monaco, che l'altra sera sembrava Gerd Müller o chi vuoi tu, insomma, giocatore di grande potenza, non è costato un'infinità di quattrini. Io credo che Llorente abbia delle possibilità di essere in proporzione un giocatore simile per la Juve. Già preso a zero, insomma, con un ottimo ingaggio, con il rischio di un contratto lungo se facesse fatica ad adattarsi al nostro calcio e al tipo di gioco della Juve, però ha queste possibilità potenzialmente. Massimo, ci fermiamo un attimo per il traffico e poi chiudiamo la nostra chiacchierata continuando sui sorteggi di Champions League, perché sono curioso di capire qual è il pronostico della tua finale e il pronostico vincitore di questa Champions League, e poi diamo un'occhiata anche a ciò che succederà domani e che dovrai raccontare, insomma, perché domani giornata tutt'altro che banale, no? con Milan-Napoli, con Lazio-Juventus, con l'Inter che con le sue mille rogne da grattare va sul neutro di Trieste a giocare contro il Cagliari. Strade. Tutti convocati, Magazine. Rieccoci al Magazine del sabato, rieccoci alla voce di Massimo Calegari da Mediaset Premium. Allora Massimo, visto che l'abbiamo annunciato, disegnami la strada verso la Coppa dalle grandi. Road to Wembley. No. Road to Cup. My dear. No, io, ma sai che sono penoso nei pronostici, però guarda, non c'è nessuno peggiore di me, quindi vabbè. Come gli ascoltatori sanno, ma tra l'altro o romani mi richiedono per giocare al contrario, quindi vedi te come siamo messi. No, io vedo favorito il Bayern Monaco in questo momento, cioè, lo consideravo la migliore delle otto prima dei quarti, lo considero la migliore delle quattro prima di questa semifinali, e considero che sia superiore a questo Barcellona, per come Barcellona si è dimostrato incredibilmente dipendente da Messi, perché con lui in campo ha vinto 2-0 col Paris Saint Germain, senza di lui ha perso 3-1 nelle due partite. E in generale manca Mascherano, forse mancherà Puyolo almeno all'andata quasi certamente. Sì. E credo che il Bayern abbia le caratteristiche proprio per mettere in difficoltà il Barcellona. E quindi Bayern Real Madrid finale. Io non do così poche chance a Borussia. Sento che è, insomma, messo da parte. Certo, lo scenario diabolico di Mourinho, che va a vincere la Champions contro il Bayern come nel 2010, poi magari rimane a Londra come è rimasto a Madrid perché fa il Chelsea. Diciamo, va via con la macchina del Chelsea, è diabolico. Abbraccia in lacrime con diabolica Ramos. Questa cosa. È ancora più diabolica pensarlo invece se dall'altra parte dovesse esserci il Barcellona, quindi fai un po' tu, però. Anche sì. Io all'inizio della Champions League, ma ci sono le registrazioni, quindi se non ci credete andatevela ad ascoltare, dicevo: Bayern Monaco per me è la squadra da battere in Champions League, però adesso faccio il tifo per il Real, quindi io dichiaro il mio tifo per Valentino Rossi, per il Real, e se non vi va bene sono fatti vostri. Senti, sì, no, perché così è, ognuno fa quello che gli pare, ti pare, no? Certo. Senti Massimo, un'occhiata invece alle partite che racconterai e di cui ti toccheranno dei dopo partita sempre più faticosi, perché certe volte non ti invidio, ma giuro. L'Inter che gioca, l'Inter in mezzo a tutto il polverone che conosciamo e con gli arbitri contro, perché ormai è acclarato, l'ha detto Moratti ma l'ha detto anche Bonolis, giocherà a Trieste contro il Cagliari, che tra l'altro è la squadra che ha avuto più rigori in tutto il campionato, 9, quindi un rigorino per il Cagliari ci sta. Poi abbiamo Milan-Napoli, confronto diretto per il secondo posto, e lunedì sera Lazio-Juventus tra le due scornacchiate d'Europa. Che succede? Succede che il Napoli ha una grandissima opportunità di chiuderla, o comunque di gestirla, di dare una dimostrazione di forza anche, no? Al di là del risultato, magari potrebbe anche essere un pareggio, andrebbe benissimo al Napoli, però io credo che sia la condizione ideale, psicologica e anche tecnica, forse pure fisica, perché il Milan di Firenze è sembrato di leggero calo rispetto a quello degli altri tre mesi dell'anno. Quindi credo che il Napoli abbia questa grande opportunità. Il Milan è senza Balotelli, che è stato comunque decisivo in questa rimonta, e io credo che match ball, la situazione, insomma, principale è un match ball per il secondo posto, che fa una bella differenza. Cagliari-Inter 1-0, rigore trasformato da Piniglia. Mi vuoi male, quindi magari con rigore discusso, quindi rigore discusso, mi vuoi malissimo nel pomeriggio. Così domani pomeriggio sei lì a battagliare con gente che non è neanche la cosa più divertente, insomma, no. È la meno divertente, è la meno divertente in assoluto. Parlare di calcio è molto più divertente, parlare di calcio, di sport è molto più divertente. Poi lunedì sera Lazio Juventus, vale per quel che vale, la Juventus ha già vinto lo scudetto da un'era geologica, secondo me, poi possiamo fare i conti che vogliamo. La Lazio, io mi tolgo il cappello davanti a questa squadra. Sì, alla fine, se vediamo, al del percorso di Europa League, che non è una cosa da poco, poi la stagione, lo sviluppo, la dipendenza da certi giocatori come Klose, come Mauri e Arranes è la stessa di prima. La squadra ha giocato un po' meglio, un po' più compatta, un po' più organizzata, un po' più dinamica, però la sostanza è quella. Molto dipenderà anche dal risultato di Milan-Napoli, perché se Milan perdesse, la Lazio avrebbe la possibilità di avvicinarsi, tornare a meno 4 oppure in ritardo negli scontri diretti. Quindi insomma la vedo molto complicata. Credo che debba concentrarsi sulla Coppa Italia, fondamentalmente giocarsela nel derby, se sarà la Roma contro l'Inter, se sarà così, quello è l'obiettivo principale, e sarebbe un grande risultato. Ma un po' rinfrescata come squadra, credo che Lotito e Tare lo sappiano, e questo sarà. La Juve sarà sicuramente molto agguerrita, arrabbiata, perché vorrà riprendersi qualcosa dal punto di vista emotivo che ha lasciato contro il Bayern. Però, come dici tu, insomma, la supremazia in Italia mi sembra. Massimo Calegari, io ti ringrazio e presto ti aspetto a questi microfoni. Ah, che onore, che piacere. Va bene, ci sarò sicuramente, promesso. Grazie Max. Grazie a voi, buona domenica, presto. Dunque, amici miei, dopo la chiacchierata con Massimo Calegari a tutto tondo, adesso arriva il mio momento preferito, devo dire la verità, del magazine del sabato, quello in cui posso riascoltare le vostre voci, quelle della settimana, quelle delle vostre migliori telefonate. Normalmente sono 3, però in una settimana particolare come questa ne abbiamo scelte 4, non solo perché siete stati molto bravi, ma perché 4 sono le semifinaliste di Champions League, le semifinaliste delle coppe europee. Allora partiamo dal numero 4, Laura, buongiorno signora. Buongiorno. Aspetta, io volevo solo dirle appunto una cosa, che lei ha avuto il merito di farmi avvicinare al mondo del calcio e allo sport in generale. Io non sapevo nemmeno cosa fosse un fuorigioco, però ma chi lei se ha ne la capacità frega il fuorigioco? Quindi insomma il risultato diciamo che è apprezzabile, però proprio la capacità di così di trasmettere il divertimento, la passione, la leggerezza, l'ironia con cui grazie, forse Laura, bisogna parlare di calcio, insomma. Guardi perché... Laura, questo è il complimento più bello che mi possa capitare, perché il senso è questo, insomma. Io voglio parlare con tutti voi, io mi diverto a parlare di sport, lo sport è la cosa che mi piace di più al mondo. Non sopporto invece gli eccessi, le esagerazioni, le vene del collo gonfie e atteggiamenti fuori luogo. Bene, dunque, dopo, mentre arrossisco a questi complimenti di Laura, adesso passo a un altro ascoltatore che invece parla di altri argomenti un po' più nerazzurri. Provincia di Venezia, Annunzio. Sì, buongiorno signor Magenta, grazie per avermi convocato. Sull'Inter volevo fare una domanda a lei: secondo lei è più grave l'errore che ha fatto Gervasoni dando un rigore inesistente, o è più grave l'errore che ha fatto Egidio Ranocchia, visto che è simile a quello che faceva Calloni negli anni 70-80, insomma? Beh, peccato che Egidio Calloni facesse il centravanti, mentre Ranocchia di professione dovrebbe fare il difensore centrale, quindi la risposta è quasi in re ipsa. Però è chiaro che l'Inter è stato, insieme alle discussioni sulle coppe europee, all'eliminazione di Juventus e Lazio, è stato l'argomento della settimana, e dunque su questa falsa riga proseguiamo. Massimo, da Reggio Emilia. Buongiorno signor Gente, grazie per la convocazione. Prego. Niente, io sono interista sfegatato, sì, antisportivo, tifoso, fazioso, insomma sono una persona orribile sotto quell'aspetto lì. Però guardi, per già una mi volta... sta simpatico, posso dire, già mi sta simpatico. Ecco, no, sono veramente... Io ho passato anni a dare sempre la colpa agli arbitri, però le dico la verità, mi sono anche un po' rotto le scatole, perché un conto nel 1998, faccio per dire, quando non diedero il rigore a Ronaldo, sì, lì